Ciao a tutte e tutti, benvenuti a Radio, state ascoltando Radio Wombat, benvenuti a Uru, la trasmissione che parla di musica, suoni e qualche notizia dal continente africano. Prima di iniziare vi ricordiamo i social, il sito wombat.noblogs.org dove potete ascoltare le trasmissioni che vi siete perse di tutti il palinsesto della radio, quindi ascoltarle oppure scaricarle e ascoltarle quando vi pare e dove vi pare. C'è poi il sito, il profilo Twitter della radio, twitter.com/radiowombatfi, la mail per comunicare con noi, postawombat@insiberia.net. Vi ricordiamo anche che Uru ha il proprio profilo Twitter, perché almeno parliamo di Africa anche fuori da questa trasmissione, che è Uru-RW di Radio Wombat. Ricordiamo anche che oltre ad andare in onda in diretta alle 21:30 il venerdì, Uru è anche in replica la domenica alle 10 e il lunedì alle 15. E stasera Egg Life, questo genere musicale che è particolarmente suonato, ascoltato, danzato in Ghana e successivamente anche in Nigeria. Una musica particolare che ha avuto la sua maggior momento di diffusione negli anni 60, ma che inizia già negli anni 20. Una musica che appunto ha origine in Ghana e utilizza strutture ritmiche melodiche tradizionali e principalmente della musica tradizionale del popolo Akan, ma successivamente si è evoluto, diciamo così, o comunque sono entrati in gioco anche altri elementi ed altri strumenti oltre a quelli tradizionali, e quindi successivamente diciamo si è allargato sia dal punto di vista dell'utilizzo, del numero di utilizzo degli strumenti, che dal punto di vista della diffusione. E appunto Egg Life è nato in Ghana, come dicevamo precedentemente, negli anni 20, quando i primi esecutori di Egg Life incorporano influenze straniere come il fostrotto e il calypso e lo innestano su ritmi ghaniani come lo Zibiza, per esempio. Tra l'altro Zibiza è un nome di un gruppo non africano, però che si rifà alla tradizione africana molto in voga, diciamo così, negli anni 60-70. E inizialmente Egg Life è associato alla, diciamo, una sorta di aristocrazia africana locale. Quella durante il periodo coloniale diciamo frequentava i club, i night club in particolar modo della capitale del Ghana, cioè di Accra, ed era suonato da numerose band fra cui i King Jets, i Cape Coast Sugar Babies, l'Accra Orchestra e via dicendo. Infatti viene il suo nome, che mantiene tuttora, deriva originariamente dal fatto che appunto Egg Life, quindi la società, l'alta società in cui tra l'altro per partecipare, diciamo, a questi concerti toccava pagare anche un biglietto d'ingresso. Ma negli anni 40 la musica, l'Egg Life, diciamo, c'è uno scarto, diciamo, un passaggio che lo porta ad essere popolare. Quindi si diramano dall'Egg Life originario due flussi distinti, quello da band dance e quello da band con chitarra. E appunto dicevamo che da quel momento, dagli anni 40, comincia a essere popolare, ad essere suonato, cantato, ballato, diciamo così, anche ascoltato chiaramente dagli operai, dalla classe lavoratrice ghanese, in particolar modo chiaramente di Accra, che già era una città con diverse industrie, e anche dai marinai liberiani, che appunto la Liberia è un paese confinante col Ghana, e che appunto frequentavano sia la costa, le città portuali della Liberia che quelle del Ghana. Quindi appunto inizia questa nuova vita, quella a noi più ci interessa, insomma, di vita dell'Egg Life, in cui ci sono delle band piccole ma che girano, diciamo, nelle che dalla città si vanno nei comuni più piccoli, specialmente nelle zone rurali, e viene utilizzato, viene incorporato la chitarra, e quindi uno strumento a corde, e quindi la possibilità di utilizzare uno strumento più popolare, più conosciuto, più facilmente replicabile, diciamo, sì, anche come suono, e quindi inizia questa nuova vita, diciamo, dell'Hike Life, e iniziano a formarsi anche le band, e poi successivamente saranno tra le più conosciute fuori dal Ghana, ma soprattutto in Ghana. E nel dopoguerra le orchestre di danza più tradizionali cominciano a essere sostituite da orchestre più piccole, e quindi diciamo c'è un proliferare, insomma, di questa musica, fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui tuttora è tra i generi musicali più ascoltati, più suonati, appunto, come dicevamo precedentemente, sia in Ghana che in Nigeria, anche se chiaramente anche nei paesi vicini, insomma, Benin, Togo e via dicendo. E negli anni 40-50 uno musicista, il soggetto, diciamo, principale che ha tradotto, ha portato questa musica alla classe lavoratrice e Eddie Mensah. Sì, conosciuto come il re dell'high life, nato nel 19, quindi ha fatto proprio la nascita dell'high life, quello popolare, come dicevamo prima, nato proprio ad Accra, appunto nel 1919. Fin da piccolo, come spesso succede con gli artisti africani, ha imparato a suonare all'inizio il flauto, poi dopo è passato a imparare anche il sassofono, e ha cominciato a suonare in una band che era l'Accra Orchestra, di cui poi dopo con il tempo diventa anche il leader. La svolta, diciamo, della sua musica è stata quando Louis Armstrong è andato proprio a suonare ad Accra, in Ghana, e lui è andato al concerto e ha cominciato a mescolare facendo anche con lui una jam session, ha cominciato a mescolare questi suoni. Di lui ascoltiamo Mezzi Mezzi. Mezzi, easy, mezzi, men pensio. Mezzi, mezzi, men pensie cra. Mezzi, mezzi, easy, mezzi, men pensio. Mezzi, mezzi, men pensie cra. Azi, oh yeah, wodeo. Onya na boku wo. Mezzo, munia, mezzi, men pensie bo. Mezzi mezzi me pensi pra Aza oye wano deo Onya na boku wo Mezzi mezzi Easy mezzi me pensi o Mezzi mezzi me pensi pra Easy, mezi, men pensio. Mezi, mezi, men pensio cra. Mezi, mezi, oh yeah, mezi, men pensio. Mezi, mezi, men pensio cra. As oh yeah, one hotel. Onia, ono bokuo. Mezo, dafu, mezi, men pensio. Mezi, mezi, men pensio cra. Eh sì, 22 anni fa proprio, il 10 novembre 1995 viene giustiziato, viene assassinato lo scrittore e ambientalista, attivista contro le multinazionali del petrolio, appunto viene impiccato Kensaro Wiwa. Il 10 novembre veniva giustiziato in una prigione nigeriana, appunto Kensaro Wiwa, scrittore, poeta, attivista, e anche il produttore televisivo si era scagliato contro le multinazionali del petrolio, in particolare contro la Shell, che tra l'altro alcuni anni dopo ha patteggiato, pur di non essere portata direttamente a processo in tribunale, proprio per essere stato un mandante, seppur indiretto, diciamo così, dell'esecuzione di Kensaro Wiwa, e ha patteggiato per 11 milioni di dollari. E appunto la Shell era una delle multinazionali contro cui si era scagliato appunto Kensaro Wiwa, colpevole di inquinare il delta dell'Ilice e quindi di affamare le popolazioni locali. Una rivendicazione che gli aveva attirato le ire, la rabbia del dittatore di Sani Abacha, che lo ha incarcerato e poi lo ha fatto condannare a morte. E appunto era uno scrittore anche, aveva esordito come drammaturgo durante il periodo universitario per poi dedicarsi alla narrativa, ma fin da subito il lavoro artistico che Kensaro Wiwa ha affiancato un impegno politico e sociale che lo vedeva riaprire dapprima ruoli istituzionali negli anni 70, ma in particolare nella autorità portuale nella pubblica istruzione del River State. Il River State è lo stato nigeriano, quello del delta del Niger, appunto, in cui ci sono la stragrande maggioranza delle piattaforme petrolifere dell'estrazione del petrolio della Nigeria, della zona. Successivamente si è reso conto che il ruolo istituzionale non gli permetteva di rivendicare, di difendere la causa del suo popolo, ecco. Quindi si è posto in aperto contrasto con le stesse autorità statali e contro il governo generale, il governo federale del Kenya. Della Nigeria, sì, scusate. E quindi si è fatto portavoce delle rivendicazioni della popolazione del Niger, specialmente la propria etnia Ogoni, che nonostante sia minoritaria nella generalità della Nigeria, è maggioritaria nella regione. E quindi iniziando la battaglia contro le multinazionali responsabili di continui sversamenti, di continue perdite di petrolio che non solo inquinano l'ambiente ma danneggiano le culture, l'agricoltura di sussistenza e anche l'ecosistema della zona. E nel 1990 dà vita al movimento per la sopravvivenza del popolo Ogoni, Mosopo, che ottiene risonanza internazionale con una prima manifestazione di 300.000 persone che Kensaro Wiwa guida il suo rilascio da una prima detenzione in cui lui era già stato dentro, diciamo così, era stato incarcerato alcuni mesi senza nessun processo. E niente, con delle accuse ridicole, senza un processo vero e proprio, chiaramente un processo farsa, viene condannato a morte e viene impiccato un altro 8 attivisti. Tutto ciò che prima ancora della scadenza degli eventuali ricorsi alla condanna. E niente, prima di venisse impiccato, Kensaro Wiwa ha detto: la lotta continua. Passiamo ora ad un altro dei musicisti dell'epoca dell'High Life, del primo High Life nigeriano, si parla di Victor Abimbola Olaya, è un trombettista. È famoso specialmente durante gli anni 50 e l'inizio degli anni 60. È nato a Calabar, per l'appunto il River State di cui si parlava adesso, in Nigeria quindi. Ha cominciato anche lui da piccolo a scuola a imparare la musica e dopo ha capito che questa, diciamo, era la sua strada e quindi ha cominciato a frequentare band e suonare nelle band fino a che come trombettista ha suonato tra l'altro insieme a Etty Mensah, che abbiamo ascoltato prima, e in Nigeria diventa abbastanza famoso perché mi viene la parola in inglese, divide lo stage con i più grandi musicisti dell'epoca ghanesi o nigeriani, con appunto Etty Mensah fa la jam session insieme a Louis Armstrong e diventa leader, diciamo, di una band che chiama All Stars Band nel 1963. Di lui ascoltiamo Homo Pupa. Thank you. Allora, vi volevamo parlare di una cosa molto grave che sta succedendo in Africa, e cioè che l'Africa si sta vendendo la terra praticamente. Milioni di ettari venduti ai miglior compratori a un prezzo decisamente irrisorio. È questa la sconcertante impresa legata alla globalizzazione che siamo costretti a dirvi, perché effettivamente la denuncia che è partita dalla FAO fa vedere come praticamente quello che in gergo si chiama agrobusiness è arrivato ad espandersi in un modo sempre più dilagante in molti paesi africani. Con la terra, naturalmente, essendo a Africa, si vende anche la speranza degli africani in un cambiamento, e in definitiva li si priva delle loro radici. Abituati da secoli a usare le terre per pascolo e agricoltura, si ritrovano a vivere, senza saperlo, nella nuova proprietà di qualcun altro, senza avere diritto di espressione, come ai tempi del colonialismo. Questo colonialismo nuovo, chiamiamolo così, ha i colori e i soldi delle autocrazie petrolifere, degli Emirati Arabi e delle nuove potenze economiche asiatiche, Cina, India, Corea. Appunto, dicevamo, questa denuncia che è partita dalla FAO riguardava nel 2016 cinque stati, e cioè il Sudan, il Mali, l'Etiopia, il Mozambico e il Madagascar. A un anno di distanza si sono aggiunti anche il Ghana, la Tanzania, l'Uganda, lo Zambia e lo Zimbabwe, cioè milioni di ettari d'Africa ingoiato in un sol boccone. Una serie impressionante e preoccupante di cifre. Seul si è comprata 2,3 milioni di ettari, la Cina ne ha comprati 2,1 di milioni di ettari, l'Arabia ne possiede 1,6, la coreana Daewoo, quindi neanche uno Stato, un'azienda, si è presa 1,3 milioni, esattamente come la metà del Belgio. Non è accettabile una situazione di questo genere. Addirittura c'è chi l'ha definito una buona occasione per lo sviluppo. Non si sa di chi. Di sicuro non per gli africani, che tra qualche anno vedranno passare davanti ai loro campi, se non sono così sfortunati da essere nella terra venduta, camion carichi di grano e di riso, ma non ne avranno punto, perché questo sarà destinato a sfamare gli abitanti di quei paesi che si sono comprati la terra. Infatti la terra è venduta a dei prezzi veramente bassissimi, 2-3 dollari, e con contratti di 20, 30, 90 anni. Quindi una cifra veramente bassissima. E questo qui che cosa ha causato? Ha causato una cosa che è totalmente inedita per l'Africa, e cioè quella del latifondo, che in Africa effettivamente non è mai esistito, perché gli appezzamenti di terra sono piccoli o addirittura sono condivisi dai villaggi, che quindi ma la coltivano tutti insieme, e poi a seconda della famiglia, della disponibilità di quello che hanno fatto, se li dividono. Quindi dal rapporto della FAO che dicevamo prima si evidenziano i dubbi e le preoccupazioni per lo sviluppo futuro. Sì, tra l'altro mi dicevano diverse settimane fa, alcuni mesi fa, c'era stata una rivolta in Madagascar contro il presidente, e appunto una delle motivazioni era che appunto aveva venduto la Daewoo, la multinazionale che costruisce, che multinazionale dei telefoni cellulari, aveva venduto questa grossissima, immensa appezzamento di terra che è stato cacciato appunto in seguito a queste proteste. L'altra cosa da dire è che, per esempio, c'è l'esemplificazione, per esempio il Sudan, in cui il Fedan, che è l'equivalente di pure mezzo ettaro, appunto viene, è stato venduto un feddam, poi chiaramente moltiplicato per milioni di feddam, a $2, e in Etiopia un po' di più, da 3 a 10, a 10 dollari. E quindi niente, c'è solo da sottolineare che i possessori, e quindi successivamente quelli che trasportano, portano via da questi paesi dell'Africa il mangiare, diciamo, proprio, cioè i prodotti agricoli, li rivendono a prezzi esagerati, ecco, e quindi non solo, non soltanto per sfamare le popolazioni là, ma il loro primo interesse è di vendere, di lucrare, diciamo, su questi merci, che appunto questi beni agricoli che loro trattano come una qualsiasi merce. E sentiamo un altro pezzo, un altro Mensa, in questo caso Joe Mensa, e quindi tipico cognome, una sorta di signor Rossi, il Rossi ghanese, Mensa è l'equivalente del Rossi da noi, anche lui appunto ghaniano, chitarrista, musicista, e anche lui un'altra dei personaggi, degli autori più conosciuti in Ghana, è anche lui un progenitore del Like Life, è un rinnovatore insieme all'altro Mensa, Iti Mensa, specialmente negli anni 50 e 60. Fra le sue canzoni più sui pezzi più conosciuti sono Rock Pocopo e Bonsue, che vi facciamo ascoltare, tratto dall'album Africa, African Hustle. Thank you. Passiamo a un'altra notizia, cioè che la corte militare di Alessandria in Egitto ha rimandato di nuovo per la nona volta il verdetto finale nel caso dei Tarzana Workers, e cioè i 26 lavoratori della Alexandria Shipyard Company accusati di incitamento alle proteste e rallentamento della produzione. Il caso dei 26 dipendenti dei cantieri navali di Alessandria aveva sollevato proteste e sdegno in tutto il paese e fuori, dove sindacati e associazioni straniere avevano manifestato la contrarietà al processo militare, perché era stato colpito al cuore il diritto di sciopero. Il gruppo di lavoratori, insieme a altri 2.500 dipendenti, aveva scioperato chiedendo il rispetto dei propri diritti, il pagamento degli stipendi arretrati, l'innalzamento del salario minimo, attualmente pari a 120 euro al mese, il versamento dei dividendi arretrati sui profitti aziendali e l'assicurazione sanitaria. È stato un sit-in di 2 giorni per rivendicare i propri diritti, che è costato ai 26 lavoratori l'incriminazione di fronte a una corte militare. L'Alexandria Shipyard Company è dal 2007 proprietà del Ministero della Difesa, dunque dell'Esercito. Per questa ragione la Procura ha accusato i 26 di aver istigato allo sciopero e aver interrotto la produzione militare, mettendo a rischio la sicurezza nazionale. Quindi dopo una forzatura che non è stata superata dai numerosi attestati di solidarietà delle associazioni e sindacati egiziani. Dal 2012 non esistono dati certi, ma si pensa che i civili sottoposti a giudizio di fronte a un tribunale militare potrebbero essere di almeno 18.000 persone. Il processo cade in un periodo di grande crisi economica in Egitto e l'impoverimento si sta allargando e quindi anche lo scontento nei confronti del regime di Al-Sisi, già colpevole di una durissima repressione delle voci critiche. Tra le ultime campagne lanciate dalla società civile c'è We Want to Live, focalizzata proprio sulle condizioni di vita che soffocano da tempo le classi più povere. Un tasso di povertà salito al 25%, disoccupazione alle stelle, soprattutto tra i giovani, e un'inflazione che tocca quasi anche questa il 25%. Questa campagna, lanciata da sindacati e associazioni, si fonda contro i diktat del Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, che hanno imposto dure misure di austerity e politiche neoliberista per poter accordare prestiti al Cairo, come fanno sempre loro, diciamo, come dappertutto. Quindi aspettiamo e vediamo cosa decideranno su questi lavoratori egiziani. Passiamo ora a Orlando Julius, un altro degli strumentisti, dei musicisti più conosciuti, se non altro all'interno della Nigeria, perché appunto Orlando Julius è nigeriano, è un multistrumentista, è stato tra i primi a fondere con la Highlife Rhythm and Blues e quindi anche uno dei progenitori più influenti musicisti dell'Afrobeat, in particolar modo durante la metà degli anni 60. E anche lui, come la stragrande maggioranza dei musicisti che abbiamo fatto ascoltare, inizia fin da piccolo a imparare la musica, flauto, bagol ed altri strumenti, e poi successivamente passa anche alle percussioni e ai suoni, ai fiati, e così fonda dall'età scolare, ecco, la Mambo Dance Band, e dopo aver finito la scuola si dà una propria continua alla sua carriera di musicista, suonando nei vari gruppi musicali, nelle varie orchestrine, diciamo, che popolano la Nigeria in quel momento, in particolare come flautista e percussionista, quindi proprio una varietà, diciamo, di conoscenze, di tecniche musicali che spaziano appunto dai suoni a percussione a quelli a fiato, e suona tra l'altro con altri conosciuti musicisti nigeriani, tra gli altri Eddie Conta e con la sua band, così come successivamente forma la Modern Haze Band a Ibadan, che è la città principale dello Stato, la Nigeria è uno Stato federale dello Stato in cui è nato, e continua con i Modern Haze fino a tutti gli anni 60, aggiungendo, diciamo, a Like Live le tracce, appunto, come abbiamo detto, Rhythm and Blues, ma anche dei jazz. Ho deciso di suonare, sostiene in una sua intervista, di aggiungere nuovi suoni alla mia musica, in particolare alla soul music. Ho ascoltato John Coltrane, Otis Redding, Smokey Robinson, Sam e Dave, e così ho aggiunto ai ritmi africani anche queste musiche, queste musiche tradizionali, ecco, le musiche tradizionali di Calypso, ma anche il soul e il jazz, e fonda il Super Afro Soul. e successivamente continua invitando nella propria band altri strumentisti, altri musicisti, come per esempio Dairo Res Lawson, che è un altro tra i grandi, diciamo, del high life nigeriano, Tunji Oyelana, insomma tutta una serie di soggetti, diciamo così, che puntualmente ritroviamo anche nelle compilation oppure le nostre trasmissioni, le nostre puntate riguardano l'Afrobeat. Di lui facciamo ascoltare Binu Binu, che è uno dei pezzi incisi a metà degli anni 60. Binu binu o, e ma se binu awamo. Binu binu o, e ma se binu awamo. Oba loke o. Gbagbe enikan o fe boya o ire ata binu binu o e ma je binu awa mo binu binu o e ma je binu awa mo aye o fe ni foro afori eni asiko ni gbogbo nkan Tapoluwa wa aye o fe ni foro afori eni o pe boya o ire akare State ascoltando Radio Wombat, Uru, vi ricordiamo i social della radio, wombat.noblogs.org è il sito dove potete scaricare i podcast delle puntate precedenti. Vi ricordiamo che Uru va in diretta alle 21.30 il venerdì e poi in replica alle 10 la domenica mattina e alle 15 il lunedì. Sempre nel sito potete vedere il palinsesto e controllare con gli orari tutte le trasmissioni che ci sono per sentirle in diretta. La radio ha anche un profilo Twitter che è Radio Wombat Fi, la posta, la mail, postawombat@insiberia.net, Uru, la nostra trasmissione, ha anche un profilo Twitter personale che è uru-rw di Radio Wombat. Sì, non è un appuntamento, ma un invito a partecipare, ecco, alla lotteria No inceneritore, No aeroporto, sottotitolo del volantino che pubblicizza l'iniziativa Un colpo alla fortuna, un colpo alle opere nocive, con il 14 gennaio 2018 festa ed estrazione dei numeri alla limonaia di Villa Montalto a Campi Bisenzio dalle 15 alle 20. e sempre nel volantino ricchi premi tra prodotti della terra, chilometri zero, aziende e territorio, idee fantasiose di attivisti e solitari e solidali. Per sapere dove acquistare un numero e vedere la lista dei premi, collegati a Piana Contro Nocività, non Nocività perché appunto l'accento non è consentito, ecco, sui siti web, pianacontronocivita.noblogs.org. Biglietti a prezzi irrisori, un biglietto 2 euro, tre biglietti 5 euro. Tutto il ricavato sarà utilizzato a supportare le iniziative del presidio contro l'inceneritore e contro l'aeroporto. Quindi la lotteria, un colpo alla fortuna, un colpo all'opere nocive. 14 gennaio l'estrazione, prima del 14 gennaio, già da ora, già da oggi, potete acquistare i biglietti, 1 euro, 2 euro un biglietto, 5 euro tre biglietti. E se ci alterniamo, andiamo ora in Ghana con gli African Brothers, il cui leader è Nana Kwame Ampadu, che si sono formati a Kumasi, la seconda città più importante del Ghana, la capitale Accra. Kumasi è la città, diciamo, industriale, ecco. Come succede spesso, le band, diciamo, di questa zona dell'Africa hanno iniziato a suonare come band di un hotel, di un albergo, anche questo sta in questo caso l'Ambassador's Gardens. L'Africa Brothers, appunto, diretta da Nana Kwame Ampadu, ha ottenuto le prime incisioni a metà degli anni 60, per la precisione 1967, e il tema dei loro pezzi è molto spesso la crescente divisione della società tra ricchi e poveri. Tra l'altro, proprio questa sua caratteristica popolare, dice, tra il 68 e il 78 il gruppo ha inciso ben 400 tracce singole, 400 pezzi, ecco. È un gruppo, e poi successivamente ha spaziato anche nell'Afrobeat, è uno dei gruppi più conosciuti proprio tra le classi popolari del Ghana, gli African Brothers, Nana Kwame Ampadu. Il pezzo si intitola Bone Biara So Vuo Akatua. Yeah. Russ Lawson, il prossimo interprete di cui ascolteremo un pezzo, con il cardinale, musicista, trombettista in particolare, che ha suonato con quelli che erano, diciamo, i principali, più conosciuti, i più diffusi, le cui musiche erano le più diffuse sia in Nigeria che in Ghana negli anni 60, musicisti come Sammy Hobot, Bobby Benson e comunque con le maggiori band della zona. Ricordiamo che Accra e Lagos, le due principali città del Ghana e della Nigeria, distano soltanto 200 km, e quindi c'era e c'è tuttora un continuo scambio, un continuo incontro, diciamo, tra i musicisti delle due nazioni. Ecco, in particolare però Russ Jim Lawson iniziato a suonare a Port Harcourt, che è, per quanto riguarda la Nigeria, la capitale del nightlife, così come Lagos è la capitale dell'Afrobeat. Diciamo, la scena del nightlife si è sempre basata, è sempre contraddistinta per essere la scena principale musicale di Port Harcourt. Ci ha lasciato presto, ecco. Lewis è morto nel 1971 in un incidente di auto proprio mentre andava a un concerto, per suonare sulla strada, per andare a suonare un concerto a Wari, che è una delle principali città della Nigeria. Ma nonostante ciò, tuttora la sua musica è una delle più ascoltate, e anche, c'è questa particolarità, una delle più rimissate nell'ambito della musica, della scena musicale high life, sia nigeriana che ghariana. Di lui ci sentiamo Bere Boto. Sull'Highlife, con il focus sugli anni 60, finisce qui. Vi aspettiamo venerdì prossimo alle 21:30. Mi raccomando, ascoltate Radio Wombat. Ciao a tutte e tutti.